Zolt. Fulminati in azienda. Allora Pacco, organizziamoci sti giorni e godiamocela. Anzi, io ma godo e tu fai un po' come credi. Cosa sei, dottor? La vedo brillante, con un viso radioso. Se è successo qualcosa di importante, non so, una promozione. Ma meglio, Pacco, meglio. L'aga vinto il Super Enalotto. L'aga vun eredità. Sì, vabbè, che stava ancora qua. Dai, Pacco, non esageriamo, dai. È una cosa che passa per la testa. Ah, forse che ho capito, indovinala. Sì, sei innamorà. Sì, se è vero, dottor, la sei innamorà. Ma... ando vivi, ando stai, ma che stai a dire? Te lo dico io cosa è successo. Marco Surpezzo è partito, si è andato a Okaga, deve stare una settimana in Giappone per un convegno importantissimo. Me voleva portare, ma io non ci sono andato e adesso me la voglio godere. E allora come festeggiamo, dottor? Allora, intanto tu non festeggi, niente, fai tutto quello che devi fare. Ma prima però mi devi organizzare un torneino de briscoletta col gruppo. Briscoletta col gruppo? Pacco. Prendi nota, scrivi. Sì, sì, devi sì. Sapere che in azienda c'è sta un gruppo dei grandissimi, sì, affezionati di un gioco che appunto si chiama briscoletta. Fine da spiegazione. Allora scrivi, chiama schedula, l'IT manager, Rossi, beretta dalla produzione, pia tutto dalla logistica, ecco. Che avvertino i loro uomini, ecco, poi anche guarda, chiamami Paragone, che se c'è da giocare non si tira mai indietro. Perfetto, se tutto? No, aspetta. E poi aggiungi, ce se vede tra mezz'ora a sala riunioni numero uno piano d'era, punto, e carte le porto io. Altro? Die la parola d'ordine, cucù, sul pezzo non c'è più. Allora carissimi, è con grande piacere che vi accorgo finalmente per sta riunione strategica. Allora, modalità torneo de briscoletta, praticamente oltranza, se siamo pronti si parte. Verbalizzo? Verbalizza. Ecco, allora, sala riunioni numero 1, presenti 28. Inizio primo girone di qualificazione, ore 12.15. Orario di fine. Orario di fine previsto? Schedula o scriviamo dopo, vedremo come si mette. Ah, va bene, allora notificheremo dopo. Mazzo? Tocca a me, faccio io. Oggi l'inserviente chi lo fa? Dico, chi pensa a panini, vettovaglie? Alla bisogna o fa Pacco? Bene. Le sigarette le ho prese io, una stecca. Allora, cominciamo? No, scusate, un'ultima domanda. Centri, sei proprio sicuro che sul pezzo sia partito? Insomma, che è già in aereo? Perché non mi sento rilassata. Schedula, io. Ma quando mai sei stata rilassata in vita tua? No, insomma, non devo fare un'indagine di sicurezza per capire se effettivamente il margine di rischio non è superiore alla possibilità che... Se ti dice che è tutto a posto, è tutto a posto. No, perché sai, se io non sono tranquilla, la mia capacità di performance diminuisce esponenzialmente. Se poi perdo, questo è un effetto incontrollabile. Schedula, schedula e basta. Possibile, non ti sai concentrare manco sulle cose serie. Famo sta briscoletta. Asso di bastoni. Ho capito, ma è già uscito l'asso di bastoni. Qualcuno sta a barà. No, era la mano precedente. Madonna, sto telefono, aspetta. Però avevamo detto cellulari spenti. No, le regole sono regole, c'entri però, Devo rispondere, magari è Pacco d'Arbarco, tra mezzi. Allora, numero sconosciuto, ma che pronto? Pronto, c'entri, eccomi qua. Pronto? Pronto. Non sento, Marco, non sento, Okaga non si sente. No, ma quale Okaga? Sento forte e chiaro, centrifuga. Ma che sei, sull'aereo? Nessun aereo, aeroporto bloccato per sciopero. Sono qui, sono in taxi, sto tornando, tra 3 minuti sono lì. No. E c'è una cosa importantissima da fare. Aspettami al parcheggio perché ho una montagna di valigie da scaricare. Valigie? Ma io ho appena iniziato una riunione strategica. Ma importante. Che discorso è, centrifuga? Come sempre la sospendi, perché come diceva Shakespeare, ubi maio, vino cessa. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z2O 1T.